Buonasera a tutti e benvenuti a questa serata organizzata dall'Associazione Genitori e dal Comune. Abbiamo con noi questa sera Silvana De Mari e Marco Tomatis. Sì, vabbè, Marco Tomatis qui, che lo conoscete tutti, è un apprezzato autore di libri per ragazzi e per adulti di Mondovì, quindi siamo molto orgogliosi che lui sia un moregalese. Comunque è qui in veste di coordinatore del progetto Scrittori a Scuola, che è un progetto del Comune che a noi dell'Associazione Genitori piace davvero tanto, perché porta gli scrittori in carne ed ossa a parlare con i nostri figli alle elementari, alle medie, ed è proprio una cosa molto bella. E Silvana De Mari è uno di questi autori che oggi e domani avrà l'occasione di conoscere alcuni dei nostri ragazzi. Siamo molto felici che lei abbia accettato il nostro invito, ma di lei vi parlerà poi meglio Marco Tomatis, dopo che io gli passerò il microfono, dopo il saluto del nostro sindaco. Grazie. Brevissimo, perché l'attenzione giustamente questa sera è nell'ospite di quello che avrà modo di dirci, ma davvero io ho raccolto anche questa sera con piacere l'invito che mi è stato fatto ad esserci, ed è un'ulteriore occasione davvero per constatare, per prendere atto di quello che è davvero il dinamismo, la vivacità della rinata, insomma così ho preso coscienza proprio questa sera, Associazione AGE di Mondovì. E dico dinamismo e vivacità perché il calendario degli incontri che in pochi anni è stato promosso sulla nostra città è davvero straordinario, e tutte con occasioni davvero altrettanto significative e anche con buona frequenza, devo dire. Quindi credo davvero che il plauso particolare vada proprio a chi l'AGE ha voluto riproporla, e che in qualche modo consente a noi genitori di avere l'opportunità per ascoltare davvero dei momenti di riflessioni profonde e di interesse. E lo dico tanto più in un momento in cui la società sta cambiando e sicuramente contraddistinta dalla frenesia del nostro quotidiano, dove di fatto davvero i nuclei familiari vedono sempre più entrambi i genitori lavoratori, dove quindi anche il tempo da dedicare alla famiglia e alla cura dei figli è sempre meno. E quindi giustamente svolgere il ruolo educativo del genitore in queste condizioni è sempre più difficile. Quindi farlo con coscienza, con consapevolezza e avendo gli strumenti per svolgerlo al meglio sicuramente aiuta. E quindi grazie davvero per quello che state facendo, per le energie che ci mettete, e quindi buon ascolto a tutti. Buona serata. Ok, allora precisiamo, non c'è Marco Tomatis e Silvana De Mari, c'è Silvana De Mari. Incidentalmente con Marco Tomatis, visto che con Maresa della biblioteca abbiamo praticamente, e l'altra persona, abbiamo organizzato questo Scrittore a Scuola, e ben volentieri abbiamo contattato Silvana quando l'AGE ci ha chiesto di farla parlare in una serata come questa, che, ripeto, è la seconda, perché l'anno scorso era toccato a Guido Quarzo. Allora, io dico solo due parole veloci su questa iniziativa Scrittori a Scuola, di cui mi spiace, sovente neanche i giornali parlano molto. Scrittori a Scuola vuol dire che vanno degli scrittori, scrittori di serie A, o addirittura, come nel caso di Silvana De Mari, gente che gioca in Champions, ma ecco, e la vince, no? A parlare con mio figlio non è grande, no? Ma con i nostri figli. Qual è l'originalità di questa iniziativa rispetto ad altre iniziative molto più pubblicizzate? È che noi mandiamo gli scrittori nelle scuole, no? Partiamo a settembre, parliamo con gli insegnanti, qui ci sono gli insegnanti quindi lo sanno come funziona, i ragazzi leggono i libri dello scrittore che scelgono e poi lo scrittore va in classe. E la dimensione di questa iniziativa sono grandi. Quest'anno, non ho le cifre esatte, ma facciamo circa qualcosa come 70 incontri nell'arco di un mese e tocchiamo più di 1000 bambini. 1500, ecco, Maresa mi corregge. 1500 bambini, sono tanti. Su un territorio, e lo dico con molto piacere, che è molto oltre Mondovì, perché arriviamo a Prunetto e Ormea, cioè io adesso le leggo lì, no? Perché Ormea, Monesiglio, no? Cioè tocchiamo la Langa, tocchiamo la montagna, arriviamo a Viola, no? Quindi da questo punto di vista è un'iniziativa che credo sia abbastanza rara in Italia. E ci illudiamo, ma io sono convinto che serve, noi consideriamo che la lettura sia un grande valore, e sono stato molto contento domenica quando su Repubblica, qui ho letto una statistica recentissima dell'AIE, l'Associazione Italiana Editori, da cui è uscito fuori che per la prima volta dopo anni la fascia dei ragazzi in età scolare, comprendendo anche la fascia 0-6 anni, perché la biblioteca di Mondovì, e quindi il comune, non organizza soltanto scrittori a scuola, ma organizza Nati per Leggere, che si occupa che appunto si rivolge ai bambini in età di scuola materna e prima ancora, e organizza anche incontri pomeridiani in biblioteca, che hanno un solo difetto, nel senso che non si sa mai dove mettere la gente, perché sono tanti, no? Ecco, che quelli che... dicevo, per la prima volta il numero dei lettori in età scolare ha superato quelli degli adulti. Vi dico due cifre velocissime, leggono secondo dati dell'AIE almeno un libro all'anno il 46% degli adulti e il 58% dei ragazzi in età scolare, 0-18 anni, 19 anni, con punte fino al 60% nella fascia 11-14 anni, che guarda caso è la fascia che presidiamo maggiormente noi. Poi l'articolo faceva un sacco di ipotesi su questo trend tutto sommato positivo. Ve le risparmio. Io credo che in parte sia merito delle scuole e delle biblioteche che si sono attivate a divulgare la lettura. E in parte, lasciatemelo dire, in parte merito degli editori che comunque hanno curato pubblicazioni di libri italiani e stranieri molto interessanti per i ragazzi, e soprattutto, e questa è una cosa corporativa, no? Degli scrittori che si seguono, che quantomeno qualcosa di buono l'hanno combinato. Tra questi chiaramente c'è Silvana De Mari. No, tutti, d'accordo, ma io, siccome stasera abbiamo Silvana De Mari, no? Cioè, ecco, che lo dico con molto piacere, se son vere le notizie, che, ma penso che siano vere, in questo momento è la scrittrice, ma non per ragazzi, scrittrice tout court, più pubblicata all'estero, contemporanea, vivente, non andiamo a prendere tante Alighieri, no? Più pubblicata all'estero dopo Camilleri. Ha vinto tutti i premi importanti che c'erano da vincere in Italia e all'estero sulla letteratura per ragazzi, è una collezione completa, no? È veramente una grande scrittrice. Ne parlavamo oggi con Anna Vivarelli, l'altra scrittrice che era qui oggi, e c'è uno scalino sopra di noi, se non una rampa di scale, no? Ha rinnovato veramente il fantasy, rendendolo così, inserendo nel genere tematiche moderne, complesse, importanti, e quindi io lascio la parola a lei e mi accingo ad ascoltare, perché sono molto curioso di sentire quello che dice. Grazie. Grazie. Io ringrazio tutti voi di essere qui, ringrazio moltissimo Marco che deve aver organizzato questo incontro, e grazie al vostro sindaco di avermi accolta. Io preferisco parlare in piedi, quando parlo da seduta dopo un po' non riesco a tirare più fuori la voce. Allora io mi siedo così. Ecco, come è già stato dichiarato, io sono lo scrittore fantasy. Il genere fantasy è normalmente considerato un genere minore. Lo scrittore fantasy non vince mai il premio Nobel per la letteratura, non vince mai il premio Strega. In effetti, il genere fantasy è considerato un genere per bambini, per semideficienti e per gente un po' strana, tipo i nerd, che sono tizi che stanno imboscati col loro computer da qualche parte e ogni tanto vanno a vedere la 21ª edizione di Guerre Stellari. Non so se avete presente Aldo, Giovanni e Giacomo quando coi colloni verso il basso fanno «Io sono Scrunk, figlio di Scronk». Beh, il genere fantasy più o meno è quella roba lì. In realtà il genere fantasy è un genere straordinario che fonde due generi precedenti, il poema epico e la fiaba. E il poema epico contiene valori maschili, contiene la lealtà, il coraggio, la cavalleria. E con questo non voglio dire che noi femminucce siamo tutte delle vigliacchette, ma il coraggio è una virtù virile, ci va il testosterone. Mentre la fiaba contiene valori femminili. La fiaba contiene il desiderio delle donne di essere amate fino all'ultimo dei nostri giorni e vissero sempre felici e contenti. I maschi in genere dopo i primi 20 anni magari con la segretaria, mentre questa cosa del fino all'ultimo dei nostri giorni è proprio nostra, ma soprattutto in mezzo alle sue volute d'oro e d'argento la fiaba ha osato contenere la persecuzione dei bambini. Che cos'è la letteratura fantastica? Il posto dove si tengono i mostri. Come ci ha spiegato Kafka, quando qualcosa è troppo atroce per poterlo guardare negli occhi perché ci ribrucerebbe, lo nascondiamo in mezzo al fantastico, perché in qualche maniera potremo affrontarlo. Le fiabe, che sono così carine, ci raccontano come un bambino possa essere assassinato da un genitore impazzito, Biancaneve, come una bambina possa essere discriminata rispetto ai fratelli e massacrata di lavoro, ma anche torturata, poi vedremo perché, Cenerentola. Raperonzolo, una bambina è venduta dalla madre in cambio di cibo, delle rape. Nel film molto carino della Walt Disney, la principessa viene rapita, no, è stata venduta, altrimenti perché si chiamerebbe Raperonzolo? Potevano chiamarla Maria Agnese, che era un nome più carino. La Bella e la Bestia, una bambina è consegnata a una bestia da papà. Vi rendete conto di cosa vuol dire? Ma papà era in un sotterraneo e allora? Un uomo per bene muore lui, non consegna mai la sua bambina. Se mio padre fosse stato in quel sotterraneo sarebbe morto, mai mi avrebbe consegnato. Pelle d'asino, un re che vuole sposare sua figlia, mio Dio quanto suona male. Ma di cosa ci stanno parlando? Hansel e Gretel e Pollicino, i bambini sono stati mangiati. Il corpo del bambino è stato sfruttato fino all'ultima briciola. I bambini sono stati inghiottiti, interi, dai camini. Bambini di 3 o 4 anni venivano venduti per fare lo spazzacamino. Cosa c'è che terrorizza più di un bambino che non il buio? E dovevano calarsi in questi posti stretti che pulivano, riempendo i loro polmoni di polvere e fuligine. Nessuno di loro ha superato i 20 anni. I bambini sono stati inghiottiti dalle miniere, bambini di 4 anni che scendevano in miniera e oggi sono inghiottiti da fabbriche di tappeti o di mattoni, da cui non escono mai. I bambini sono stati mangiati. Nelle grandi e terribili carestie, prima di morire di fame, si mangiano i cadaveri. E i bambini muoiono per primi, o sono più facili da essere acchiappati. È stato stabilito che nella guerra dei 30 anni in Germania, alla fine di quella guerra, un tedesco su 3 era morto. E i 2 ancora vivi non potevano che essere sopravvissuti se non mangiando cadaveri. I bambini sono stati mangiati in Ucraina. La fame ha spinto la gente a mangiare i cadaveri, a mangiare i morti, ma dopo che ci siamo mangiati i morti non osiamo più guardarci negli occhi gli uni degli altri. Quindi è stato negato, non è stato raccontato, però è rimasto incastonato nelle fiabe. Il poema epico, la prima parola scritta su questo continente, è la parola ira, l'ira funesta canta mio diva, e la città di Troia viene consegnata all'eternità. L'avete visto tutti il film Troi? Meno male, il film Troia, signora, il film Troia è un film assolutamente imperdibile, per 3 motivi. Primo, c'è Brad Pitt. Secondo, Brad Pitt per tutto il film sta praticamente in mutande. Terzo, Brad Pitt, che è già notevole di suo e per tutto il film sta praticamente in mutande, è ulteriormente aumentato col computer, viene fuori una roba veramente interessante. Il libro da cui è preso il film Troy è l'Iliade, poi si aggiunge anche l'Odissea, un pezzo nell'Eneide di tutta la sceneggiatura, qualche altra cosa raccattata in giro. Qual è la storia raccontata? È la storia di un uomo, quest'uomo si chiama Ettore, che deve combattere contro un semidio, appunto Brad Pitt aumentato col computer. Ettore esce dalla città di Troia e avrebbe maggiori probabilità di sopravvivenza se andasse a battersi contro un carro armato a mani nude. Achille è estremamente veloce. Achille ha una forza sovrumana. Achille è addirittura invulnerabile. Ettore esce e guarda in faccia la sua morte. Alle sue spalle le enormi porte si chiudono. Fa molto caldo e ci sono le mosche sul suo sudore. E sa che di lì a pochissimo le mosche saranno sul suo cadavere. C'è l'odore della terra calda sotto il sole e lui sa che da lì a pochissimo ci sarà l'odore del suo sangue. Pazienza. Alle sue spalle, però, le invincibili mura di Troia stanno proteggendo quello che lui ha di più sacro al mondo. Stanno proteggendo la sua patria, il suo popolo, stanno proteggendo sua moglie e suo bambino. E che fine fanno nei testi il figlio e la moglie dello sconfitto? Il bambino, quando poi l'astuzia di Ulisse avrà ragione delle invincibili mura di Troia, viene ucciso buttandolo giù dalle mura. E non è che si sono sbagliati. Né, che hai fatto? Hai fatto che te il bambino mi sono inciampato. No, lo uccidono apposta. E questi non sono degli avanzi di galera o della gente scappata dal manicomio. Sono i principi generali e re dell'esercito greco. Una volta che è crollato il coraggio dei padri, la vita dei bambini non vale nulla. E la madre di questo bambino dovrà diventare la schiava, voleva dire che gli stirava i calzini, ma voleva dire anche un'altra cosa, di coloro che le hanno assassinato, il bambino e il figlio. Perché nel film abbiamo cambiato? Onestamente, con buona pace della presenza di Brad Pitt, il film Troy non era sto gran capolavoro. Perché l'abbiamo citato? Perché c'è sufficiente quest'unico banalissimo esempio per renderci conto di una cosa. Nel film Troy, alla fine, c'è una specie di mezzo happy end, forse happy end è una parola grossa, e il figlio e la moglie di Ettore scappano insieme a Enea. Perché abbiamo cambiato? Perché noi non tolleriamo più che un personaggio che non sia il serial killer o il sicario della mafia uccida il bambino e ne prenda con la violenza la madre. Cos'è cambiato tra noi e le mura di Troia per cui un comportamento che era considerato etico oggi è considerato nauseante? Cosa c'è tra noi e i greci, e Ettore e Achille? C'è la storia di una donna con un bambino in braccio, c'è il cristianesimo. Per cui noi abbiamo due poemi epici. Un poema epico pre-cristiano dove i valori sono due, la lealtà e il coraggio. Un poema epico post-cristiano dove i valori sono tre, la lealtà, il coraggio e la cavalleria. La cavalleria vuol dire che un uomo non può usare la sua forza contro una donna, mai, neanche se è la donna del nemico sconfitto, che un soldato non può mai toccare un bambino, che non puoi più toccare quello che si è arreso, scusate. Immaginiamo un attimo il poema epico post-cristiano, Ser Lancillotto, giusto? Ser Lancillotto torna da Re Artù, Re Artù e stai seduto alla tavola rotonda che sta facendo il sudoku, o sta leggendo Il Sole 24 Ore, lo spread di nuovo alzato, fino a poi capiremo che cos'è, e gli domanda, né Lancillotto come è andata? Bene, bene, abbiamo vinto, abbiamo ammazzato i ragazzini, abbiamo preso con la violenza la loro madre, scusate, è impensabile. Tra noi e le mura di Troia c'è il cristianesimo, c'è la storia di una donna con un bambino in braccio e sono una donna e un bambino ebrei. Cosa vuol dire che sono ebrei? Che alle loro spalle c'è un altro tizio ebreo che mentre girava in tondo 40 anni nel Sinai, questi hanno passato 40 anni nel Sinai a fare Suez, Eilat, Shemen Sheikh, Eilat, Suez nell'altro senso. Fossero andati sempre dritti per 40 anni e arrivavano a Vancouver. Se beccavano il passaggio nord-ovest arrivavano alle Montagne Rocciose, che magari gli davano anche un nome meno cretino, quelli che hanno chiamato le Montagne Rocciose e la gente che aveva una predisposizione per l'ovvio. Quindi Mosè e i suoi hanno girato 40 anni nel Sinai e hanno ricevuto la legge. Facciamo un attimo di riassunto su quello che sta succedendo. Siamo all'età del bronzo e loro vengono dall'Egitto dove hanno fatto per 400 anni lo schiavo. E in genere quando uno fa lo schiavo prende le abitudini, insomma, di quello, questi niente, sono sempre rimasti tali e quali, uguali a se stessi. L'Egitto era una società di forma piramidale. Non è un caso che quando gli egiziani costruiscono qualcosa lo costruiscono a forma di piramide. La piramide ce l'hanno qua, questi sono una piramide. Piramide vuol dire che quello che era in testa alla piramide, il faraone, aveva tutti i diritti. Lo schiavo, nessuno. Quando il faraone moriva, ammazzavano i suoi schiavi preferiti, e magari era gente di 16 anni che scherzava di salute, per metterli con lui nella cella funeraria, perché, scusate, se poi il faraone si svegliava alle 2 del mattino che aveva bisogno di una minestrina calda, qualcuno gliela doveva preparare. E voi eravate lo schiavo sedicenne, schiattavate di salute, vi ammazzavano, ma voi, per consolarvi, dicevate, vabbè, mi ammazzano, però ci guadagno l'imbalsamatura. Qual era il senso dell'imbalsamatura? Che se conservavi la laringe, potevi dire al dio Horus il tuo nome, entravi nel regno dei morti. Se la tua laringe se l'erano mangiati i vermi, al dio Horus non gliene fregava niente, non entravi nel regno dei morti. Ma io ero madre Teresa, non ce ne frega niente signora, fuori dai piedi. Peraltro, anche la teologia di quelli dall'altra parte del Mediterraneo, come finisce la guerra di Troia? Col papà di Ettore che va a chiedere il cadavere a Achille, perché se quello non lo seppelliscono in una certa maniera non entra nel regno dei morti. Qualcuno dei 10 comandamenti dice devi essere stato seppellito in una certa maniera? Qualcuno dei 10 comandamenti fa una qualche distinzione tra il faraone e gli altri? I 10 comandamenti sono uguali per tutti e tu sei responsabile solo delle tue azioni. Che gli altri ti abbiano seppellito o non ti abbiano seppellito, sei finito in una fossa comune, chi se ne frega? I 10 comandamenti, quindi, sono il momento dopo il quale nessuno è più talmente miserabile da non poter avere una morte degna. Come ci ha detto Lewis, autore delle Cronache di Narnia. Così finalmente cominciamo a rispondere alla domanda di perché diavolo stiamo parlando di religione in una conferenza che doveva essere di fantasy. Molto semplicemente perché nella grande letteratura fantasy sono stati messi dai due padri fondatori, Tolkien, autore del Signore degli Anelli, e Lewis, autore delle Cronache di Narnia, i valori della spiritualità biblico-evangelica che sono stati rinnegati nelle due terrificanti religioni atee del XX secolo, il comunismo sovietico e il nazismo tedesco, che non sono mai stati movimenti politici, sono stati movimenti religiosi, messianici e salvifici. Mosè ha avuto la legge, non uccidere, non rubare, la legge uguale per tutti. E straordinari sono gli ultimi due, in cui io devo assumermi la responsabilità non solo delle mie azioni, ma dei miei pensieri. Non desiderare la roba da altri, non desiderare la donna da altri. Allora, sono qui, ferma e immobile, guardo il muro, non ho nemmeno sbattuto le palpebre, posso già aver commesso due peccati capitali, beh, uno almeno, il secondo un po' difficile, comunque. Non desiderare la roba da altri. Non desiderare la roba da altri non sta proteggendo la proprietà privata. Neanche non rubare sta proteggendo la proprietà privata, è una religione. La proprietà privata gliene frega niente a nessuno. Sta proteggendo me dalla tentazione di rubare. Perché se mi perdo nella tentazione, io mi distraggo dalla capacità che anche a me è stata data di conquistare ricchezza. Non devi rubare mai, la legge di Mosè non fa sconti, mai. Ma sto morendo di fame, mio figlio sta morendo di fame, trova il sistema di produrre ricchezza, oppure diventa il mendicante, lo snorer, trova la dialettica per convincere gli altri a regalarti qualcosa, così farei agli altri l'enorme dono della compassione. Nella civiltà ebraica il mendicante è una figura importante, soprattutto nella civiltà schenazita, infatti c'è la famosa battuta: perché fai il mendicante, il posto di rabbino l'ha già preso, faccio il mendicante. Non desiderare la roba da altri, che cosa non devo desiderare? Gli oggetti degli altri, sì, perché altrimenti mi distraggo dalla capacità che a me è stata data di avere gli stessi oggetti o altri che mi diano la stessa gioia. Cos'è che non devo desiderare? Sapete, io vorrei tanto avere la faccia di Nicole Kidman e il sedere di Penelope Cruz. E se riuscissi a trovare un esperto di chirurgia estetica veramente molto bravo, ce la potrei anche fare. No, devi fare il meglio che puoi con quello che ti è stato dato, perché quello che ti è stato dato, che tu ci creda o no, è sufficiente a trovare la gioia, ma devi stare concentrato su quello. E queste sono le regole per andare in paradiso, non lo so, può darsi, ma sicuramente senza queste regole la vita diventa l'inferno in terra. Come si è massacrato Michael Jackson? Aveva tutto, aveva denaro, era amato, aveva talento. Michael Jackson è morto perché voleva il colore della pelle di qualcun altro, il naso di qualcun altro, è morto col naso in necrosi, senza naso, è morto con le piaghe, perché a furia di schiarirsi la pelle col cortisone, il suo sistema immunitario si era stato annientato. Non desiderare la vita degli altri. Perché gli altri sono liberi e io sono in campo di concentramento? Fai il meglio che puoi con quello che ti è stato dato. C'è stato un uomo dal fondo di un campo di sterminio, Viktor Frankl, che è riuscito a trovare le linee della gioia. Tieni sempre l'attenzione concentrata sulla bellezza, senza mai distrarti. Questo c'è anche nella Bibbia, eh? C'è un tizio che si chiama Giobbe a cui va tutto per il verso storto. Prima gli muore la vacca, poi gli muore la capra, poi gli muore la pecora, poi gli muore anche la gallina. A questo punto aumenta lo spread e Giobbe dice: ma porca miseria! E il cielo si riempie di luce e arriva la voce di Dio che dice: oh! E Giobbe dice: io per te ho fatto l'alba. Viktor Frankl, in campo di concentramento, teneva l'attenzione concentrata sulla bellezza dell'alba, teneva l'attenzione concentrata sulle stelle. Quando non poteva vederle ne ricordava la posizione. Una volta tenuto per un quarto d'ora l'attenzione concentrata sulla bellezza di una testa di aringhe finita nella sua sbobba, guardando tutta la simmetria di questa testa e ricordando che lì lui era in campo di concentramento, stavano succedendo cose terribili, ma il creato continuava a esistere. Da una parte c'era il mare e migliaia di aringhe che nuotavano tutte insieme. Lui ha tenuto l'attenzione per tutto il tempo concentrato su sua moglie. Era in piedi, immobile, in questi infiniti appelli e pensava a sua moglie. Pensava al momento in cui sarebbe uscito dal campo di concentramento per tornare a casa, avrebbe fatto i 3 piani di scale, lei gli avrebbe aperto la porta e lui le avrebbe detto: guarda, mi sono tornato. Lui è uscito vivo dal campo di concentramento, vivo in tutti i sensi, nel senso che respirava, nel senso che non l'hanno spezzato. È tornato a casa, ma sua moglie non c'era più. Pochi giorni dopo il suo arresto, lei è andata a consegnarsi alla Gestapo nella speranza di poterlo raggiungere, ma lei non ce l'aveva fatta. E per tutto il resto della sua vita Viktor Frankl ha tenuto l'attenzione concentrata su quanto bello sia stato avere un amore così grande. Perché gli altri sono sani, io sono malato, tieni l'attenzione concentrata su quello che hai. E nella tua vita, per quanto disperata ti possa essere, cerca le linee della gioia. Per quanto infinita sia la notte che mi circonda da tutti i lati, io sono l'unico capitano della mia anima. Non desiderare la donna da altri. Perché lo dice solo a loro? Perché loro hanno il testosterone, che è dinamite. Noi gli estroprogestinici, signore, Robetta. Quello che noi abbiamo molto sviluppato è l'istinto materno. Per cui anche a 60 anni, quando passiamo davanti al negozio di carrozzine, ci fermiamo a guardare dicendo che bello. Per quanto riguarda il sesso, una donna normale pensa al sesso 2 volte al giorno quando ha 30 anni, una volta al giorno quando ne ha 40, dal 45 in poi 1 volta su 2 abbiamo mal di testa. Un uomo normale pensa al sesso 6 volte l'ora. Era la loro sessualità che andava imbrigliata. Non desiderai la donna d'altri, non desiderai la donna che non ti ha scelto. Quindi, c'è la Gianina Rossi che ha come moglie questa stangona bionda? No, perché altrimenti non ti distrai e non guardi la moglie tua. Che magari è un po' piccolina, quello basso, coi baffi, però insomma, se tu resti concentrato su di lei, le porti i fiori, eccetera, vedrai che a un certo punto vi divertite anche voi. Tanto più che lei è baffi, eh? Quando le donne hanno i baffi vuol dire che hanno un po' più di testosterone, hanno una libido maggiore, lì ci si diverte di più. Quindi donna baffuta sempre piaciuta ha anche una sua valenza letteraria, perché Madame Bovary viene descritta con una forte peluria del labbro superiore, e lo stesso la prima moglie del principe Andrei, che in realtà è l'unica moglie del principe Andrei perché lui e Natascia non si sposano mai. Quindi non desiderare, ok, va bene, d'accordo, chi sono gli altri? Se noi siamo i greci gli altri sono i troiani, se noi siamo gli assiri gli altri sono i babilonesi. Se noi siamo i russi, gli altri sono i tedeschi. Se noi siamo i tedeschi, gli altri sono i russi. Non desiderare la donna d'altri. E la moglie di Ettore, assicuro. Attenzione, non desiderare la donna d'altri non sta vietando lo stupro etnico. Quello era già vietato in non commettere atti impuri. E non è che il Dio degli israeliti fosse unico, povere stelle, hanno capito male, glielo spiego meglio. Non commettere atti impuri e non commettere atti impuri. Sta vietando anche solo pensarci. Perché il crimine è talmente atroce, il crimine è talmente terrificante, le macerie restano ancora dopo generazioni, che anche solo pensarci, la sessualità maschile è un piano inclinato, la pallina dopo che ha preso troppa velocità non la fermate più. È lo stesso discorso per cui non solo è vietato fabbricare bombe e farle esplodere, ma è anche vietato mettersi in condizioni di causare un'esplosione. Se io al secondo piano di uno stabile di 10 piani scrivo Silvana De Mari, fuochi artificiali, dopo 5 minuti arriva una carabinieri, dice, signor, scusate, parliamone un attimo. Perché il crimine è talmente folle che anche solo essersi messo in condizione di poterlo fare. Come cominciano le guerre di sterminio? Andiamo a prendergli la moglie le cose, anche solo pensarci. Tutta la civiltà occidentale è nata nel Sinai, sui 10 comandamenti. È tutto impalcato lì. Signora, l'ha visto i 300? Signora, si è perso i film migliori del decennio. Allora, un altro film molto interessante, il film I 300. Qui i maschioni rifatti col computer sono 300 con i loro addominali d'acciaio. La storia sarebbe quella di Leonida. Questi devono battersi contro un infinito esercito di Queen che arriva oltre l'orizzonte. Quelli delle drag queen, che sono i persiani, sono forniti anche di troll, non si sa perché. Dovevano essere avanzati ai sceneggiatori del Signore degli Anelli, gliel'han prestati, tanto ormai erano gratis. Ma i nostri, forti del fatto di essere in una strettoia, ce la potrebbero anche fare, ma a un certo punto arriva Quasimodo, il gobbo di Notre Dame, che è il traditore, che li frega tutti. Quali sono i 2 punti salienti del film, quelli che interessano a noi? All'inizio, se vi ricordate, c'è una rupe dove ci sono dei cadaveri di bimbi piccoli, è la rupe che era a Sparta, era anche a Roma, ci sarà stata anche qui, avranno fatto qualcosa, non so. dove si buttavano i bambini malformati, quelli che non erano abbastanza forti, perché quello che conta non è l'individuo, ma lo Stato, l'insieme. L'individuo vale solo come frammento dello Stato. Pensate che a Sparta avevano diritto al funerale solo la donna morta di parto e l'uomo morto in guerra, che erano morti per lo Stato, gli altri fosse comuni. Quindi chi non era abbastanza forte veniva buttato nella spazzatura. I 10 comandamenti dicono non uccidere. I bambini malformati, i bambini malati non possono più essere buttati nella spazzatura. La lupe c'era a Sparta, la lupe c'era a Roma, a Gerusalemme la lupe non c'era. Perché è Quasimodo il gobbo di Notre Dame che li frega tutti? Perché nell'antichità precristiana i belli sono buoni e i cattivi sono brutti. È come nei film muti. Che nei film muti uno capisce subito qual è il cattivo perché è quello deforme, non si capisce perché quello buono gli gira le spalle, dovrebbe averlo ormai capito anche lui che prima o poi ti pugnala. Ma il cristianesimo è una storia di gente brutta. Gesù Cristo è sfigurato dal dolore, molti martiri sono sfigurati dal dolore, di gente brutta e di gente debole. La bruttezza e la debolezza smettono di essere crimini morali, salvo ritornarlo immediatamente, non appena il cristianesimo viene sospeso. Come comincia la marcia verso lo sterminio? Con l'eugenetica, con l'uccisione dei bambini malati. La prima passo che abbiamo fatto è stato rimettere la lupe. Le fiabe ci raccontano il dolore del bambino non amato, che nessun altro ci ha raccontato. Il dolore del bambino non amato è contenuta nell'eterna onnipresente figura dell'orfano, per cui nella grossa grande narrativa fantastica sono sempre tutti orfani. Biancaneve, orfana, Cenerentola, orfana, Spider-Man, orfano, Superman e Batman, orfani anche loro. Harry Potter, orfano, il brutto Natroccolo e Pinocchio, figli di genitori dispersi. Perché sono tutti orfani? Perché l'orfano è la metafora del bambino non amato. Perché certamente è vero che tutti i padri amano i loro bambini, ancora più li amano tutte le madri. Nel meraviglioso mondo dove vivono Antonio Banderas e la gallina, nel mondo vero questo non è affatto vero. I padri possono essere alcolizzati, le madri massacrano i bambini di botte o li buttano nel cassonetto. Padre e madre alle 2 del mattino tengono sveglia tutta la famiglia con queste urla terribili. Sei una stolta incredibile, la frase non è questa. Non so perché io ti ho sposato, sei un individuo ignobile. E lui è lì nel suo lettino con gli occhi spalancati e pensa, e non ha tutti i torti, che se mi volessero bene davvero non si direbbero queste cose. Capita alle madri, beh è capitato a me. Madre di un figlio adorato, straspettato, finalmente arrivato. La cosa più bella e più grande che ho fatto in vita mia è essere la madre di mio figlio. Bene, mi è capitato di tornare a casa, arrabbiatissima per motivi miei, di lavoro, e trattare da schifo il mio bambino da 4 anni che non c'entrava niente. Le madri possono essere furibonde, le madri possono essere disperate, le madri che non amano se stesse non riescono ad amare i propri figli, meno che mai le proprie figlie, con cui si identificano. Una madre a cui non è stato perdonato di essere femmina e a cui non è stato perdonato di aver messo al mondo una femmina, nessuno si faccia illusioni, lo farà scontare alla sua bambina. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Pensate che solamente 60 anni fa è affiorato alla luce della scienza l'informazione che i bambini devono essere amati e il loro sistema emotivo deraglia. Solamente 60 anni fa il neuropsichiatra Bowlby, girando per gli orfanotrofi dopo la Seconda Guerra Mondiale, si rende conto dell'assoluta infelicità del bambino accudito ma non amato. Dopo la Seconda Guerra Mondiale l'Europa era piena di orfanotrofi, c'erano orfanotrofi tremendi dove gli scarafaggi erano più grossi dei sorci e i sorci erano più grossi dei bambini, altri orfanotrofi più civili e decenti dove una qualche cura era data. Bowlby è il primo che si rende conto del terribile dolore del bambino non amato. E dopo il crollo del muro di Berlino e l'apertura di alcuni orfanotrofi terribili, quelli ex sovietici ma soprattutto quelli rumeni, noi ci siamo resi conto dei tragici danni, anche cognitivi, che dà l'assoluta mancanza di affetto. A cosa serve l'amore di papà e mamma? Beh, tutti noi da neonati abbiamo pianto da 1 a 60 volte per notte, quindi solo il fatto che oggi siamo tutti vivi a raccontarcela vuol dire che le nostre madri hanno resistito da 1 a 60 volte per notte alla tentazione di scaraventarci fuori dalla finestra e farsi una dormita come Dio comanda. Quindi pipurà per le nostre mamme, e se dovete rinascere meglio al piano terra, non si sa mai. Non basta. A cosa ci serve l'amore di papà e mamma? Nello sguardo di papà e mamma si forma il nostro io. Il cervello del bambino è ricchissimo di un particolare tipo di cellula nervosa, il neurone specchio, grazie al quale, per imitazione, impara tutto. In 2 anni si impara una lingua, come ci si muove in una civiltà, come ci si veste. Il bambino impara, interiorizza, diventa un pezzo del suo interno, diventa un pezzo del suo io, come papà e mamma guardano lui. Quindi, se quando papà e mamma si illuminano, lo guardano, si illuminano, per lui sarà facile avere un io forte. Dire io sono io so chi sono. Non devo dimostrare niente a nessuno per sapere chi sono. Se invece la mamma, tutte le volte che lo guarda, dice che schifezza sto scarafaggio, che mai avrò fatto di male? Questo povero bambino tenderà ad avere un io molto rattrappito. E dice io sono, chissà chi sono. E siccome non sa chi è, cerca nello sguardo altrui l'informazione su se stesso. Ah, per inciso, se è capitato a noi, una mamma che proprio non ci voleva, un papà che non ci considerava una benedizione, se è capitata a noi una di quelle nonne meravigliose che ti guardano da distante e dicono ma mamma e zia così carine, tu chissà da dove vieni fuori, io il vestito da principessa non me lo metterei, secondo me non ti sta bene. Diventiamo dei resilienti, come i protagonisti delle fiabe. Resiliente è un termine che nasce dall'ingegneria, che mischia resistente ed elastico. Tutti i protagonisti delle fiabe sono dei resilienti. Dopo che è stata nel regno dei morti, perché la mazzigna, che in realtà mamma ha cercato di ammazzarla, non è che Biancaneve passa il tempo a farsi curare la sindrome post-traumatica da stress 3 volte alla settimana alla psicanalista. Basta, è passata. Vissero sempre felici e contenti. La norma dell'umanità è la resilienza. Noi siamo le nostre scelte, non i nostri traumi. Noi siamo fortissimi. Pensate alla nostra storia. Vi siete mai sbucciate le ginocchia? Stanno ancora sanguinando? No. Come per il vostro corpo, per la vostra anima, la norma e l'autoguarigione, come si diventa dei resilienti? Tieni sempre l'attenzione concentrata su quello che funziona. È andato tutto da schifo, stai respirando, tieni l'attenzione concentrata su quello. Mamma era una iena, può darsi, ma sei vivo. Il solo fatto che siamo vivi vuol dire che i nostri genitori non ci hanno ammazzati. Poteva andare peggio. Quindi una frazione d'amore ce l'hanno data. Teniamo l'attenzione concentrata lì. Altrimenti rischiamo di diventare la strega di Biancaneve. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Chi ha uno schema ipercompetitivo? Lo schema competitivo è una cosa che tutti abbiamo nel cervello, piantato più o meno qui nel sistema limbico. Non è un optional, fa parte del pacchetto base. Tutti noi siamo portati a essere felici quando vinciamo. Per la precisione si fabbrica dopamina. Ve la ricordate la partita Italia-Germania, Balotelli che si leva la maglietta? Quando si guarda una partita di calcio si hanno le stesse emozioni che quando si ascolta il poema epico. Affiliazione al gruppo, serotonina alta e dopamina alta, vittoria. Siamo più contenti quando la nazionale vince che non quando perde, giusto? Anche quando vinciamo noi. Quando prendi 10, quando guadagni del denaro, quando sei arrivato primo ai 100 metri, anche secondo, terzo. Ah no, terzo. Quelli che arrivano secondi sono molto più arrabbiati. E va bene, è giusto così. Esattamente come è giusto voler essere belli. Ti fanno lo sconto nei negozi se sei più bello. Ma in realtà non è vero. Perché la bellezza è completamente arbitraria e varia di epoca in epoca. Nell'Etiopia meridionale considerano bella una donna che ha un piatto di 10 centimetri nel labbro inferiore. In Birmania una che ha il collo sfigurato da degli anelli. Uma Thurman, che noi consideriamo bellissima, la stangona di 1,90 m con 42 di scarpe, sia il Re Sole che ai tempi di Greta Garbo l'avrebbero trovato un mostro. Come, di chi ci si innamora? Degli alfa, non dei belli. Le persone belle spesso hanno una fortissima fiducia in se stesso, più quindi diventano alfa. Ma ci si innamora degli alfa. Volete che ci si innamori di voi? Innamoratevi voi di voi stessi e gli altri si innamoreranno di voi. Anna Magnani era bella o no? Ma chi se ne frega, l'altra era Anna Magnani. Barbara Streisand, Mary Streep, chi se ne frega? Georges Depardieu è bello o no? Ma dai, è Georges Depardieu. La regina non è abbastanza intelligente ad arrivarci. Lei deve essere sempre la più bella del reame. Avete notato che la regina chiede allo specchio chi è la più bella del reame? Le persone che hanno uno schema ipercompetitivo in realtà hanno un complesso di inferiorità. E non si fidano del proprio giudizio, hanno un io rattrappito, hanno sempre bisogno di un lettore esterno. meglio se numerico, che può essere il concorso di Miss Mondo, Miss Universo, Miss Mondo V. È il peso, specchio specchio delle mie brame, chi è la più magra del reame? Tutti i disturbi della sfera alimentare sono disturbi della sfera competitiva. La ragazza vuol diventare 35 kg per sedurre il ragazzo a cui le sue ossa sono orripilanti, ma per mettere su internet la fotografia delle ossa e dire sì, sono la più magra del reame, fino alla morte. Il denaro, che è una cosa carina e simpatica, chiunque vi racconti che il denaro è una brutta cosa vi sta contando delle balle. Il denaro è energia, come l'energia elettrica. Se hai più energia puoi modificare di più la realtà. Ma io sono io, non sono il mio denaro. Se domani perdo fino all'ultimo dei miei centesimi, dirò porca miseria, dopodiché mi tiro sulle maniche e ne guadagno degli altri. Non sono io, è il mio denaro. Il voto. Prendere 10 è più bello che prendere 4. Ma se, capite quelli che dice, perché lei ha preso 9, lei ha preso 9,5 e io ho preso 9? Il voto della figlia. Perché tu hai preso 9 e Stefania ha preso 9,5? Sono tutti schemi numerici con cui io cerco il significato di me stessa se non ce l'ho. Certo, queste sono cose che abbiamo fatto un po' tutti, mica siamo diventati degli assassini. Ma se uno deve assolutamente essere più del reame o muore, diventa un assassino. Specchio, specchio delle mie brame, lo specchio deve averne fino qui di questa pazza che lì 50 volte al giorno chiede chi è la più bella del reame. Questi non memorizzano, eh? Ogni 5 minuti devono essere riconfermati di nuovo. Ed è sufficiente una sola sconfitta che tutto il loro castello di carte crolla. La ragazza che si è laureata con 110 lode, che viene bocciata all'esame di procuratore, si mette a fare la casalinga. Perché è la legge o tutto nulla. Per levarsela dai piedi, che non ne può più, lo specchio le dice che è più bella Biancaneve. Non è vero, eh? Noi che abbiamo visto il film della Walt Disney, sappiamo che la regina è molto più bella di questa gallina squittente che fa i lavori di casa cantando. Nel mitico film I fratelli Grimm e l'incantevole strega, infatti, la regina di Biancaneve la fanno fare alla Monica Bellucci, che è una strafiga imperiale. Poi, prima o poi, incontrerà la fata Mazzina che la tocca con la bacchetta magica e la volta che imparerà a recitare. La regina ci casca e decide di uccidere Biancaneve. Vedete lo schema? Qual è il primo crimine di cui ci parlano? L'invidia. Decide di uccidere Biancaneve, può di uccidere Biancaneve. È disposta a qualsiasi cosa, manda il cacciatore. Il cacciatore non la uccide, Biancaneve ha 7 anni, nella versione dei fratelli Grimm, ci sta parlando della morte del bambino. Il cacciatore non va a piagnucolare a processo in Norimberga, questi erano i miei ordini. Il cacciatore non la uccide perché non ci uccidono i bambini. Noi siamo responsabili delle nostre azioni, punto. Il responsabile dell'azione è colui che la commette, punto. Fine. I responsabili della Shoah, dello sterminio degli ebrei, non sono né Hitler né Himmler, che erano due poveri dementi, ma tutti i singoli uomini che hanno commesso lo sterminio. Gliel'hanno ordinato, ma non è vero. La Gestapo, in Francia, aveva ordinato di rastrellare gli ebrei. Non aveva mai ordinato che fossero messi tutti quanti in un velodopo, senza acqua, a soffrire la sete, a dover urinare e defecare davanti a tutti e deridere gli uomini quando chiedevano dell'acqua per i loro figli. Le SS del ghetto di Pretel avevano avuto l'ordine di rastrellare gli ebrei. Nessuno aveva dato loro l'ordine di bastonare a morte i bambini per punire i padri che non avevano voluto mangiare delle salsicce. Tutti hanno eseguito l'ordine al 150%, ma in tutti i casi il responsabile di ogni azione è colui che la commette. Non è la multinazionale che c'è dietro. Dice, lì c'è perché c'è la multinazionale che vende le armi. La multinazionale vende le armi anche in Svizzera. La multinazionale c'è sempre. Non è che c'è la multinazionale che diventa un assassino. Avete presente la storia di Ulisse? Avete presente la storia di Otello, scusate? Otello che uccide Desdemona? Perché Iago gli dice che la moglie lo tradisce? Il responsabile della morte di Desdemona è al 100% Otello. Lui uccide perché è un assassino. Se non fosse lui ha una serie enorme di possibilità. Può restituire Desdemona a suo padre, può cacciarla in convento, può venderla come schiava al sultano, che non è bello d'accordo, ma insomma sempre meglio che ammazzarla. Può mandarla all'inferno e farsi 15 amanti più giovani o anche solo una sola. Può perdonarla. La uccide perché lui è un assassino. Se Iago non gli avesse sibilato idiozie, l'avrebbe uccisa l'anno successivo perché una rivista di gossip pubblica foto taroccate. Ma io trovo sempre quello che mi sibila idiozie, quello che mi dà l'ordine sbagliato e la multinazionale che mi spinge a fare la cosa sbagliata. E allora? L'uomo retto alla legge. Tu applica la legge e vai. Dice, ma il cacciatore non ha fatto una bella fine. Sì, vabbè, d'accordo. Ma è molto più divertente morire per qualche cosa che vivere per nulla. E vale la pena di morire perché il bambino non si è assassinato. Il cacciatore è un giusto. La regina di Verte Biancaneve, che scappa nel bosco inseguita dalle ombre, una bimba di 7 anni terrorizzata. E finalmente finisce nella casa dei 7 nani. Devono essere figli di genitori tossicodipendenti alcolizzati, visti i nomi che gli hanno dato. E dato che Biancaneve, povera stella, non è molto intelligente, dato che i nani sono bassi, gli parla come fossero bambini. Vi siete lavati le manine? Come ti permetti, questi hanno 80 anni, hanno la barba bianca e tu sei a casa loro. In realtà Biancaneve parla ai 7 nani come fossero bambini, perché i 7 nani sono la metafora di un mondo bambino. Qual è la fondamentale caratteristica dell'infanzia? L'impotenza. Un bambino può essere preso, venduto, ucciso, mangiato. Quando la realtà diventa ingovernabile, quando il dolore è insopportabile, il sogno di tutti i bambini è scappare in un mondo dove nessuno sia più alto di loro, nessuno possa far loro del male. Questa regola è fissa in tutti i popoli, in tutte le latitudini. Pur di uccidere Biancaneve, la regina fa il supremo sacrificio, la sua vita e la sua bellezza. Quindi la regina diventa il perdente radicale. Adolf Hitler è un perdente radicale, il terrorista suicida è un perdente radicale, l'assassino per gelosia è un perdente radicale. Il perdente radicale è una figura che esiste sempre, sia nella vita quotidiana che nella storia. Non è che quello che ha inventato Biancaneve, che non sappiamo chi sia, sappiamo chi ha raccolto queste fiabe, ma non le primi che le hanno inventate, ha pensato, aspetta, adesso metto una storia dove gli spiego il concetto del perdente radicale, così poi quando tra 5 secoli hanno il genocidio lo capiscono. Il nostro cervello ha 2 emisferi. Un emisfero radicale, che funziona per via logica, processa un solo pensiero alla volta ed è di tipo analitico. E un emisfero non razionale, che funziona per via analogica, cioè per via non razionale, per via non logica, che non vuol dire che è scemo. Irrazionale non vuol dire scemo, ma che usa altri sistemi per comprendere la realtà e per permetterci di adattarci alla realtà. Processa centinaia di pensieri alla volta ed è di tipo sintetico. Il nostro emisfero ha delle intuizioni e le mette nelle storie, ma non se ne rende conto. Gli vengono in mente le storie. Lì dentro, nelle grandi fiabe classiche, non sono stati messi intuizioni sul funzionamento della psiche umana, che sono incredibili. E questo anche giustifica la profezia. La profezia è perché il mio cervello non razionale, decifrando il linguaggio non verbale, una serie di elementi, ha una memoria totale, capisce una serie di cose che io non ho messo a fuoco. Vi faccio un esempio di profezia. L'antisemitismo ha una data ufficiale in Italia, in Europa, chiedo scusa, che è il congresso di Norimberga, 1935, ok? 10 anni prima il congresso di Norimberga, nel 1925, nelle strade che già sono state percorse dal Golem, a Praga, in Cecoslovacchia, lo scrittore Kafka scrive delle storie folli. Scrive la storia di un uomo che si sveglia al mattino dopo una notte di sogni inquieti, trasformato in scarafaggio. La storia di un altro uomo, Joseph K, che è stato condannato a morte, lui non sa perché, tutti sanno, ma lui non lo sa. Sono storie che da un punto di vista razionale non hanno nessun senso, ma il suo io inconscio ha sentito la montare dell'odio. Non siamo passati in 20 giorni da buongiorno signora Levi a metteteli sui treni. Ci deve essere stati una serie di toni di voce sempre più duri, una serie di notizie, una serie di cose. Non ha messo a fuoco che da lì a poco si sarebbe scatenato l'antisemitismo in maniera mortale. Lo avesse fatto avrebbe avvertito, ragazzi, squagliamoci. Ma 10 anni dopo, cosa è successo al suo popolo? Tutti si sono svegliati, trasformati in scarafaggio. Chi è lo scarafaggio? È una creatura che va calpestata fino a quando tutti gli scarafaggi non sono stati uccisi. Fino al giorno prima ero il vicino di casa, adesso sono uno scarafaggio. Sono stato condannato a morte e non so perché, perché non ho capito qual è stato il che ho commesso. Questo vuol dire la profezia. Il nostro io inconscio intuisce vagamente, non mette a fuoco, non capisce, ma ha delle intuizioni straordinarie. Se nel nostro cervello è stato messo un intero emisfero per capire il linguaggio metaforico, per giocare col linguaggio metaforico, per farci provare piacere davanti al linguaggio metaforico, quando noi raccontiamo una fiaba a un bambino, il suo cervello produce endorfine e le endorfine annullano la percezione del dolore, lo fanno scivolare verso il sonno, migliorano il sistema immunitario e potenziano le funzioni cognitive. Per cui, diceva la buon'anima del dottor Einstein, se volete un bambino intelligente raccontategli delle fiabe, se volete un bambino molto intelligente raccontategli molte fiabe. Sono esistiti popoli che non hanno avuto la ruota, nessun popolo può esistere dove non si raccontano storie. Perché dove c'è pensiero filologico c'è pensiero filosofico, dove c'è pensiero filosofico c'è pensiero scientifico, dove c'è pensiero scientifico c'è pensiero tecnologico, finanziario ed economico. Sono come il passo destro e il passo sinistro. I popoli che hanno un altissimo livello di storia hanno un altissimo livello di scienze. Specchio, specchio delle mie brame, chi è il più bello delle reame? Le neuroscienze hanno dimostrato che quello che ci racconta la fiaba di Biancaneve è vero. L'invidia è qualcosa di terribile, è un dolore costante, gli ormoni da stress a palle, come essere scorticati, piuttosto che vivere così, uccido me stesso e uccido il mondo, il perdente radicale. Cenerentola è nata in Cina. Questa incantevole fiaba è nata in Cina attorno all'anno 1000. Chi è Cenerentola? Ma colei che ha i piedi più piccoli del reame. Qual è l'unica caratteristica da cui la riconoscono? Dopo che se la sono persa. Scusate, ma sto principe che se la deve sposare e questa deve diventare la madre dei suoi figli, non potrebbe alzare le sue terga regali dal regno e andarsela a cercare da solo? Non la potrebbe almeno descrivere? Ci ho ballato tutta la sera, piccolina, capelli rossi e lentiggini. Quando sorride si vede un solco sui denti davanti, chi se ne frega? Se questa è alta, bassa, bella, brutta, intelligente o cretina come una gallina, non può fregargli a niente a nessuno. L'unico elemento da cui la riconoscono sono le dimensioni dei suoi piedi. Attorno all'anno 1000 cominciò in Cina l'abitudine di fasciare i piedi alle bambine. Quando la bimba aveva 3 o 4 anni, sono le madri le carnefici delle figlie. La mamma con un sasso o con un martello spaccava qui le 5 ossa metatarsali. Poi scomponeva la frattura verso l'alto e fasciava, così che il piede di una donna adulta non dovesse essere più lungo di 8 centimetri. Uno schema numerico a cui chiedere il proprio valore. Il valore di una donna era misurato dalla lunghezza dei suoi piedi. Una donna povera che avesse i piedi molto corti poteva anche aspirare a un matrimonio importante. Di che materiale idiota sono fatte le scarpe della principessa? Di vetro, sarei giudicata dai tuoi piedi. Il giorno delle nozze la suocera tirava giù sulle sottane della nuora e se lei aveva i piedi fatti a forma di piede invece che a bocciolo di loto, le nozze saltavano. La percezione del dolore è molto forte nella versione dei fratelli Grimm. Le due sorellastre, l'orrenda scarpina, si tagliano via l'alluce. Si può correre con delle scarpine di vetro? Le fiabe contengono la persecuzione dei bambini. Con l'illuminismo le fiabe cambiano. Con l'illuminismo succedono diverse cose calucce. Moltiplichiamo le derrate alimentari, spariscono le grandi e terribili carestie medievali. Moltiplichiamo le derrate alimentari fondamentalmente per due motivi. Finalmente, ci è voluto qualche secolo da quando Colombo è andato, ma insomma non è facile cambiare la mentalità, cioè, cominciamo a coltivare la patata su grandi numeri. E soprattutto viene introdotta la rotazione delle culture. Per cui si scopre che se si cambia quello che si mette in un campo, si evita l'anno sabbatico, si produce un po' più roba. Bene o male smettiamo di crepare di fame, chi più chi meno. E impariamo anche a leggere e scrivere, chi più chi meno. In Italia, onestamente, meno. Noi siamo arrivati a un'unità d'Italia con 70% degli italiani analfabeti. Da altre parti, nel nord Europa, le cose andavano un pochino meglio. L'illuminismo ha voluto dire molte cose bellissime. Si potevano anche dire senza acrimonia, senza odio per quelli che ci hanno preceduto. Se noi siamo più alti di quelli che ci hanno preceduto è perché loro ci tengono sulle loro spalle. La cosa più stupida che una civiltà possa fare è ritenersi più intelligenti dei propri padri. Le alternative sono due. O sono più intelligente, o non sono più intelligente di mio padre, allora non è caso che gli sputo in faccia. O sono più intelligente di mio padre, allora lo devo a lui, alle sue scoperte, alla sua forza. L'illuminismo ha voluto dire due picconate secche a Santa Madre Chiesa, onestamente se l'era anche andata a cercare. Ma attenzione, ha voluto dire due picconate secche al cristianesimo. E il cristianesimo era l'unica cosa che aveva protetto le donne e i bambini. Era l'unica cosa che aveva protetto tutti i bambini. Nel cristianesimo noi siamo tutti figli di Eva, quindi cugini di primo grado. Siamo tutti fratelli. E questa è una realtà storica riconosciuta, non si chiamava Eva, si chiamava Lucy, non era nel Medio Oriente, era nella Rift Valley, in Etiopia, ma più o meno ci siamo. noi abbiamo tutti lo stesso, un patrimonio genetico molto simile, perché siamo discendenti da un antenato comune che non è troppo distante. Io ho maggiori affinità genetiche con un aborigeno dell'Australia, che è la persona geneticamente più diversa da me, che le differenze genetiche che ci sono tra due lupi dello stesso branco. Mentre nell'illuminismo compare la teoria poligenica. Discendiamo da antenati diversi. Comincia a comparire la teoria della razza inferiore. Gli africani sono esseri inferiori, e se non possono essere, meglio che siano uccisi. L'ho detto Voltaire, ognuno si assume le sue responsabilità, per cortesia. Si passa dall'antigiudaismo cristiano, gravissimo, all'antisemitismo che è genetico, di Voltaire, di Kant, l'odio contro gli ebrei diventa terrificante. L'illuminismo non è tutta luce. Con l'illuminismo le fiabe cambiano e cominciano delle fiabe diverse, le fiabe di Andersen, che nascono già scritte, sappiamo già scrivere, ormai siamo più alfabetizzati. Nelle fiabe di Andersen c'è un dolore diverso di quello descritto dalle grandi fiabe classiche. Le grandi fiabe classiche ci parlano del dolore del bambino non amato, della persecuzione del bambino piccolo. Andersen ci parla del dolore del ragazzo, il dolore dell'uomo, il dolore del sentirsi diverso, il dolore della perdita d'identità. Nelle fiabe di Andersen c'è il dolore di coloro che vorrebbero essere disperatamente uguali. Il brutto anatroccolo vorrebbe disperatamente essere uguale agli altri anatroccoli, ma lui è diverso. La sirenetta. Perché Andersen è così bravo a descriverci il dolore del diverso? Perché lui era omosessuale. E perché questo era il dolore della sua epoca. Rileggiamo la sirenetta sostituendo alla parola sirena la parola creatura. Una creatura che vorrebbe essere una donna, ma non lo è. Che non è né donna né pesce, che ama un uomo, non può parlare, e quando muore diventa spuma, né acqua né aria, un non essere nulla. Perché? In primo luogo perché abbiamo scoperto l'alfabetizzazione, una roba bellissima, d'accordo, ma attenzione, quando eravamo tutti analfabeti, il bambino sapeva solo quello che sapevano papà e mamma, non sapeva mai nulla di diverso, papà e mamma erano dei semidei. Nel momento in cui il bambino va a scuola, impara cose diverse o addirittura di più di quello che sanno papà e mamma. Lui torna a casa e dice a mamma, sai che ha detto la maestra, che altro ha detto quella lì? Ha detto che non è vero che il sole gira attorno alla terra, è la terra che gira attorno al sole. No, guarda, quella è scema, vedi, il sole e muore lì. E il bambino resta così, come un cucciolo di cigno affidato a un'anatra. In più, il nostro cervello si è evoluto durante la preistoria. Noi siamo dei poveri disgraziati che devono confrontarsi in un mondo postmoderno disponendo di un cervello preistorico. Nella preistoria tu avevi 25-30 persone nel villaggio, grasso che cola, 40, di cui quelli dell'età tua saranno stati una quindicina, una ventina, in metà fratelli tuoi. Adesso questo povero Cristo di bambino che deve entrare in una classe dove ci sono 70, le classi erano un po' numerose, tizi che lo guardano, oh mio Dio. Poi comincia anche l'urbanizzazione. Nel mondo medievale io stavo sempre nello stesso villaggio o nello stesso quartiere. Adesso sono in una città dove magari lavoro in un punto diverso da quello dove dormo e sono sempre circondato da gente che non conosce. Per il nostro cervello questo è terribile. Ma c'è un altro motivo per cui abbiamo perso di senso di identità. Abbiamo perso di religiosità. Noi non siamo più figli di Dio. La religiosità è un'emozione basata sulle endorfine. Nel momento in cui smetto di essere religioso ho le endorfine basse. Tutte le volte che il mio Dio mi guarda, io sono convinto che mi guardi, io produco endorfine. Posso produrne talmente tante che il mio sistema immunitario si riequilibri o il miracolo. Il miracolo statisticamente più frequente è la guarigione di tubercolosi, seguita da guarigione da cancro e guarigione da lebbra. Sono tutte situazioni dove il sistema immunitario è in ginocchio. Ma nel momento in cui la luce del mio Dio è su di me, o io sono convinta di averla, e in più sono in posti particolari come Lourdes e Maggiugoie, dove ho il popolo dei credenti con me e canti basati sulle percussioni, serotonina a palla, io posso guarire, come è scritto anche nel Vangelo. Quando fa miracoli, Gesù si informa, tu hai fede, la tua fede ti guarisce. Ci sta indicando come si fa. Non esiste nessun miracolo dove uno che non aveva un braccio, il braccio gli è ricresciuto, perché quella roba lì le endorfine non le sanno fare, ma sanno riequilibrare il sistema immunitario e bloccare le malattie degenerative. E una volta che non credo più, non ho più il miracolo. Immaginiamo com'era, guardiamo le nostre strade, proviamo a camminare a piedi per le strade di campagna. Lì sono in vista del crocifisso, faccio 2 chilometri e sono in vista dell'affarino come dove c'è l'altarino con qualcosa. Poi non lo vedo più perché ho fatto un altro chilometro, ma sono in vista dell'altro crocifisso. È tecnicamente possibile avere un attacco di panico? In qualche maniera io ho sempre qualcuno con me, sono sempre convinta. Nel momento in cui la religione crolla, noi perdiamo l'identità e quindi lo sguardo degli altri diventa terribile. E se essere diversi è un dolore, per essere rifiutati dagli altri crolla la serotonina, io mi venderò l'anima al diavolo per non essere diversa. I vestiti nuovi dell'imperatore. Se tutti dicono che l'imperatore ha addosso dei bellissimi vestiti, anch'io dirò che ha addosso dei bellissimi vestiti. Se tutti dicono che questa sciarpa è rossa, all'inizio io dirò che è rossa mentendo, poi comincerò a vederla rossa perché mediante il meccanismo della dissonanza cognitiva io cancellerò tutti gli elementi visivi che mi dicono che è verde. Nei vestiti nuovi dell'imperatore Andersen anticipa delle intuizioni che ci verranno date anche da George Orwell nel terribile libro 1984, Il Bispensiero, il conformismo spinto alla menzogna più assoluta che è alla base di tutte le dittature. Ma non c'era la polizia segreta che ti spacca le ossa alla base delle dittature? Dopo. All'inizio c'è il consenso. E soprattutto il meccanismo dei vestiti nuovi dell'imperatore è quello che ha protetto le dittature al di fuori delle dittature. Non, il problema non era solo il partito nazista tedesco, era il partito nazista svizzero, il partito nazista statunitense, il partito nazista australiano e tutti quelli che lo proteggevano. Mentre milioni di persone sono morte nei campi di sterminio sovietici, i gulag, e in quelli cinesi, i lagoi, al di fuori di questi luoghi gli intellettuali inneggiavano a queste nazioni come una specie di paradiso in terra. Esattamente come adesso le teocrazie sono protette dal conformismo che vieta di parlare dei loro crimini. Specchio, specchio delle mie brame, chi è il più uguale del reame? Andersen ci ha dato questa spiegazione. Nell'illuminismo nasce anche un nuovo tipo di narrazione, il romanzo fantastico. Il romanzo fantastico necessita di gente che sappia leggere perché si va un capitolo dopo l'altro. Mentre la fiaba è nata per essere raccontata nello spazio di una sera, nessuno può raccontare nello spazio di una sera Pinocchio o anche uno solo dei libri di Harry Potter. Quindi bisogna saper leggere. Dov'è che c'è l'immaginario collettivo? Dove ci sono gli archetipi? Dov'è la roba che interessa a tutti? Nelle grandissime tirature, nei mega seller, nei best seller, nei long seller, in quelli che vendono sempre. Ogni editore vi potrà confermare che nessun best seller è stata un'operazione editoriale, altrimenti sarebbe sempre la stessa casa editrice che la mette in buca. Tutti i best seller e i mega seller sono cominciati con un editore molto perplesso che ha detto: senta, facciamo 3.000 copie di sta roba e che Dio ce la mandi buona. Harry Potter è stato rifiutato dai primi 7 editori inglesi che l'hanno visionato. Adesso in quelle 7 case editrici il funzionario che ha rifiutato Harry Potter lo tengono chiuso nello sgabuzzino insieme al folletto, il folletto nel senso di aspirapolvere, non nel senso di gnomo, che ha già fatto abbastanza danni. È arrivato in Italia, avendo già venduto a casa sua 200.000 copie e quindi si presentava già come una roba che vende, pubblicato dalla allora piccolissima casa Salani perché era stato rifiutato dalla Mondadori Ragazzi, Rizzoli Ragazzi, Naudi Ragazzi e Feltinelli Ragazzi. Chi sono i bestseller? E di cosa parlano? Che cosa c'è nel nostro immaginario collettivo? I bestseller sono 4. Alice nel Paese delle Meraviglie, Pinocchio, Peter Pan, e poi c'è un quarto libro che da quando è stato scritto è sempre nella lista dei 10 più venduti. Pinocchio è una storia molto laica. Finalmente i preti sono fuori dai piedi. Abbiamo fatto l'Unità d'Italia contro la Chiesa e fuori dalla Chiesa. E quindi in Pinocchio noi abbiamo dei burattini paralleli, una scuola parallela, dei carabinieri paralleli, non c'è nessun rumore di campane, non si sa di che religione siamo. C'è la storia di questo bambino che non è veramente un bambino, un padre adottivo che fa il falegname e si chiama Giuseppe, finisce a un certo punto nel ventre della balena, non so, ma questa della balena l'avevo già sentita, e muore per poter risuscitare. Pinocchio muore per poter diventare un bambino. Come il bambino muore per poter diventare un angelo, cioè aumentare la sua spiritualità. Ci stanno parlando della morte del figlio. Alice corre sull'erba. Cosa c'è sotto l'erba? La terra. Alice cade nel tunnel verticale che è la tana del Bianconiglio. Dove sta andando Alice? Le metafore di morte in Alice delle Meraviglie sono moltissime. Anche le metafore di follia. Follia che compare nell'era industriale, cioè prima erano tutti sani di mente. No, non erano tutti sani di mente. ma in un mondo bucolico, non voglio assolutamente idealizzare il mondo contadino dell'epoca preindustriale, per carità, ma in un mondo bucolico, quello che non era molto intelligente o che aveva tratti di schizofrenia o di autismo, lo mettevi a guardare le galline o a guardare le pecore, lo mandavi in qualche maniera, questo restava compensato, se la cavava. Non è che la follia sia uguale tutti i giorni, eh? Se le cose mi vanno male, se mi spavento mi scompenso, ma se le cose mi vanno bene me la cavicchio. In un mondo industriale dove c'è l'orologio, c'è il rumore, c'è il tempo, c'è l'inquinamento, c'è la perdita della luce solare, dove ci allontaniamo da sole e non produciamo serotonina, quindi la serotonina si abbassa, non ce la fanno più, scompensano, finiscono i manicomi, ma soprattutto ci sono metafore di morte. Il mondo delle meraviglie, che è angosciante, non è che questa storia sia così divertente, eh? E manca il senso del buono o cattivo, dell'eroe. La gravità non è stabile e le dimensioni non sono stabili, perché in realtà siamo in un Ade pagano con quattro mani di vernice sopra. Le regole della vita non valgono più perché siamo nel mondo dei morti. Peter Pan, si dicevano di Peter cose molto strane. Si diceva che quando i bambini morivano Peter li accompagnava nel primo tratto di strada perché non ne fossero terrorizzati. Peter Pan è l'angelo della morte, Peter Pan e i bambini perduti sono i bambini morti in ospedale. Peter Pan è morto, è stato perso da sua madre. Cosa vuol dire ho perso mio figlio? Queste madri distratte. I bambini perduti, cosa vuol dire ho perso mio figlio? Sono tutti morti in ospedale, ce lo dicono nel primo capitolo, quando ci dicono che i sentieri dell'isola che non c'è sono uguali al grafico della febbre che è davanti ai letti in ospedale. Durante il Medioevo i bambini crepavano come mosche, ma a casa in braccio a mamma. Adesso vanno a morire nel sanatorio, negli ospedali. La mamma andava la domenica portando il dolcino e le consegnavano le scarpine perché il bambino era morto il giovedì da solo, non c'era il telefono. I tre bambini in visita per tutta la narrazione hanno addosso le camicie da notte e i pigiami. Peter Pan gronda sangue, è pieno di lame insanguinate. I pirati e gli indiani passano il tempo a infilzarsi con la spada e vengono descritte queste spade estratte piene di sangue. Sì, certo, è tutta una burla, ma il sangue c'è, la spada fa male. I bisturi sono lame, gli aghi di siringhe sono lame. Per due volte ci viene descritto il sorriso di Peter. Lui ha ancora i denti da latte, ce lo dicono, e lui dà ordini ai bambini più grandi. È il sogno di un bambino impotente. Cosa c'è di più impotente di un bambino in ospedale? Ci descrivono due volte il suo sorriso, lui sorride mostrando tutti i denti. È il sorriso del bambino terrorizzato. Hai paura, Peter? Dobbiamo fare una piccola iniezione. Tutte le volte che Peter si addormenta, tutte, ha degli incubi terribili e Wendy deve ninnarlo. E per tutta la narrazione c'è questo suono ossessivo di questo orologio che segna un tempo maledetto perché non ha futuro. Non c'è nessun bambino che giochi a fare l'indiano o il pirata. I bambini giocano a fare un adulto che è un indiano o un pirata. Nessun bambino non vuole crescere. Questi bambini non cresceranno perché sono morti. Il quarto libro, da sempre in testa alle classifiche, è Il piccolo principe. Il piccolo principe praticamente muore. Ci siamo anche risparmiati le quattro mani di vernice colorata sull'isola che non c'è e sul mondo delle meraviglie. Perché siamo così ossessionati dalla morte del figlio? Perché non siamo più credenti. In un mondo religioso io metterò il mio bambino in una bara e il popolo sarà con me e qualcuno mi leggerà la preghiera di Sant'Agostino. Tu non piangeresti se mi ami, se tu vedessi la luce dove mi trovo adesso. Ma in un mondo laico chi mi consolerà? Noi mettiamo nella letteratura fantastica i mostri, il mostro e la morte del figlio. Ma c'è un secondo motivo. La morte del bambino è stata sdoganata. Prima non si poteva mai, non c'erano indicazioni. Adesso si può. Si comincia con i bambini malati, si comincia con i bambini malformati. Il viaggio verso l'inferno comincia con una ragionevole strage. Ragionevoli, i malati mentali costano perché bisogna mantenerli, sono ridicoli, sono brutti, sono stupidi. I brutti sono cattivi e i belli sono buoni. Questa idiozia ritorna camuffata da scienza, si chiama eugenetica. Labbra sottili, orecchie attaccate basse, ladro costituzionale, noi ridiamo di queste idiozie. C'è gente che si è fatta 20 anni di riformatorio prima e di manicomio criminale perché aveva la testa fatta della maniera sbagliata. Sei brutto è una colpa, è un crimine. E cominciamo a fare i passi verso lo sterminio. E qui rispondo alla domanda: perché abbiamo così tanto genere fantasy? E onestamente è anche poco stimato, perché, diciamoci la verità, essendocene tanta, parecchia roba e pacotaglia, eh? Quello che è vero, sono prima di conoscerlo. Ne abbiamo così tanto perché noi siamo il sacco del genocidio. E abbiamo nascosto nel genere fantasy la realtà storica del XX secolo, uno scontro frontale tra culture di vita e culture di morte. Nel 2015 noi compiremo questo terrificante anniversario. Si comincia col 1915, gli armeni, gli ucraini, gli ebrei, il Ruanda coi tuzzi, la Cambogia. Perché? Dov'è la spiegazione? Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Che significato ha la matrigna e mamma quando è fuori di testa? Così finalmente posso mostrarla sotto i riflettori e contemporaneamente far finta di non conoscerla. Quella lì è la matrigna di Cenerentola, la mia mamma, una santa. Ok, va bene. Quale altro significato ha la matrigna? La matrigna, la seconda moglie del padre, visto che mamma mia è morta di parto, adesso mi salvi chi può, e adesso purtroppo divorzi, abbiamo la seconda moglie, la terza moglie, il quarto marito, eccetera. E anche quello c'è, che preferisce i figli suoi ai figli figli dell'altra, e anche questo ci sta. Ma c'è un terzo significato, del tutto involontario nella testa di colui che ha creato la fiaba. Ma c'è. Madre, madre, madre, ah, madre patria, lo stato criminale. Tutte le volte che una nazione sopprime una propria minoranza, la minoranza sono i più belli del reame, cioè hanno una superiorità enorme dal punto di vista culturale. Quello che io ho cercato di scrivere nell'ultimo elfo: gli elfi vengono odiati e sterminati perché hanno la magia. Noi ce l'abbiamo la magia, certo che ce l'abbiamo la magia. Siamo molto più magici noi di Harry Potter, che rispetto a noi, scusate, sono dei pezzenti, perché loro, se devono mandare un messaggio, mandano il gufo, che impiega del tempo a andare, del tempo a tornare. Se nel frattempo il cacciatore lo impallina, il messaggio ce lo siamo perso. Io col mio cellulare comunico con tutto il mondo in tempo reale. In Harry Potter le fotografie si muovono, nel mio cellulare si muovono e parlano perché ho la videocamera incorporata. Tutte le volte che loro devono sapere qualcosa, girano fisicamente i fogli. Io vado su Google e mi arrivano migliaia di file. E poi volano sulla scopa. Vai a New York sulla scopa, caro. Io sono andata a New York e sono anche andata sulla Luna. E poi hanno il terribile incantesimo Avada Kedavra con cui uccidono una persona alla volta. Io con un cacciabombardiere a 40.000 non ho ancora toccato la bomba atomica. E l'Avada Kedavra altro non è che un arresto cardiaco. Dopo che uno è morto lo guardano dicendo è morto. Dottor House, con il suo defibrillatore lo fa ripartire, eh? Almeno fa il massaggio cardiaco, un bagnino è capace. La nostra cultura è la nostra magia. In Turchia gli armeni hanno il 10% della popolazione, ma hanno il 50% dei medici e il 50% degli ingegneri. Prima guerra mondiale in corso. I malati che muoiono come mosche negli ospedali. I soldati inglesi e russi che avanzano sui fronti. Churchill, quel Churchill lì che sta cercando di andarsi a riprendere Costantinopoli. E questi sottraggono soldati al fronte per ammazzarsi metà dei medici. Vedete lo schema del perdente radicale? È stato calcolato che se Hitler non avesse sottratto soldati, filospinato, uomini dal fronte, i tedeschi non avrebbero perso la seconda guerra mondiale, i russi li avrebbero fermati. Non a Stalingrado, non sul confine russo, ma sul confine tedesco li avrebbero fermati, a Berlino non li avrebbero fatti arrivare. Gli ebrei erano il 10% della popolazione in Ungheria, l'1% in Germania, il 30% in Ucraina, ma erano il 50% dei medici e il 50% degli ingegneri. In Ruanda sono stati sterminati Tutsi, i Watusi, che erano la vecchia aristocrazia guerriera, ma erano l'aristocrazia culturale. In Cambogia sono stati sterminati gli appartenenti alla classe borghese, bastava avere un paio di occhiali per essere uccisi. Specchio, specchio delle mie brame, che è la più bella delle reame. E ci sono altre due fiabe che ci spiegano il genocidio. I vestiti nuovi dell'imperatore, se tutti dicono che questa sciarpa è rossa, è Pollicino. L'orco vuole uccidere i bambini e finisce per uccidere le proprie stesse figlie. Coloro che vogliono uccidere i figli degli altri finiscono per uccidere i loro stessi bambini. Quando i carri armati russi arrivano a Berlino, vengono mandati i bambini della Hitlerjugend a fermarli. Che cosa abbiamo messo nel fantasy? Ce l'hanno scritto Tolkien e Lewis. I valori della spiritualità biblico-evangelica negati nelle due terrificanti religioni atee. Negati in una cultura di morte. Noi siamo una cultura di morte. Questo non vuol dire che uscendo di casa do un calcio al cane, accoltello il gatto del vicino, sputo in faccia al portinaio. No. Cultura di morte vuol dire che l'assassinio del bambino viene giustificato. L'assassinio intenzionale del bambino. Chi è la cellula madre del genocidio? Ce l'abbiamo in un posto in Siberia chiamato Ekaterinburg. In questo posto la famiglia dello zar, incluso lo zar, erano confinati. Lo zar ormai era innocuo, stava lì a spaccare la legna. I suoi figli erano 4 bambine che non potevano in nessun caso ereditare il trono e un bambino con l'emofilia. Sono stati uccisi. I libri, coloro che hanno ordinato l'assassinio, li descrivono come assassini? Potete mostrarmi un libro di storia che parli di Lenin come un assassino di bambini? Io dovevo essermelo perso. Questo vuol dire cultura di morte. L'anno scorso a Tolosa, in Francia, sono stati uccisi 3 bambini ebrei. La bambina è stata inseguita per tutto il corridoio. L'assassino l'ha presa per i capelli, l'ha tirata su, dopo aver ucciso suo padre e suo fratello, e l'ha uccisa sparandole in faccia. Su internet quell'assassino è stato giustificato ed è stato inneggiato. Ah, ma non è colpa sua, è perché è stato reso così infelice. È un tizio nato in Francia. Osama Bin Laden deve essere stato terribile, essere miliardario, è una cosa durissima. Ma se anche fosse stato... Scusate, esiste un terrorismo almeno. Esiste un terrorismo tibetano. Il terrorismo non nasce dalle ingiustizie che un popolo ha subito. Nasce dalla cultura di morte. E da coloro che specchio specchio delle mie brame, ma soprattutto i vestiti nuovi dell'imperatore, lo giustificano. Noi giustifichiamo l'assassino del bambino perché altrimenti non ci fai la figura cool. E Tolkien scrive Signore degli Anelli, chi pensate che siano gli orchi del Signore degli Anelli? Nel 41 sembrava che Hitler avesse vinto la guerra. Avremmo perso il mondo. E vedete lo schema dell'amore? Il sacrificio? Nel Signore degli Anelli c'è un viaggio, tutti fanno un viaggio. Giasone fa un viaggio, Indiana Jones fa un viaggio, ma tutti fanno il viaggio perché il tesoro lo cercano, questi il tesoro ce l'hanno e devono distruggerlo. E c'è il sacrificio del bambino, il sacrificio del figlio, i bambini sono gli hobbit, sono bassi, come i nani. Che Frodo sacrifica se stesso, esce tecnicamente vivo dalla storia, nel senso che sta respirando, ma non è così tanto vivo. Harry Potter è una storia molto laica, di nuovo la religione fuori dai piedi. Harry Potter è ambientato in Inghilterra in epoca attuale, questi non si sa mai di che religione siano. Non c'è mai nessuno che domanda a un altro, scusa, ma tu sei anglicano protestante, boh, chi se ne frega. Nessuno va a messa. Quando muore il preside viene seppellito senza simboli religiosi. I ragazzi hanno 15 giorni di vacanza a Natale e la festa dell'albero di Natale. Poi hanno una settimana di vacanza a Pasqua, ma non si sa chi sia risolto, deve essere risolto l'albero di Natale. E finalmente nel 7° libro, come un colpo di pistola, arriva la parola chiesa, ma veramente voi sobbalzate, siamo anglicani e protestanti. È la vigilia di Natale, si sentono carole di Natale, le carole di Natale parlano di Gesù bambino, non degli alberi di Natale, e sono nel villaggio dove è nato Harry Potter. Dov'è il cimitero dove sono seppelliti i tuoi genitori, Harry? Dietro la chiesa, allora le chiese le abbiamo. Ah, probabilmente i tuoi genitori si sono sposati in quella chiesa, e sono anche sposati in chiesa. Finalmente trovano questa tomba. E sulla tomba dei genitori di Harry Potter c'è scritto un verso di San Paolo. Fino a quando anche la morte sarà sconfitta. E sulla tomba del preside c'è scritto un verso del discorso della montagna, non tenete i vostri tesori sulla terra. Per tutto il libro ci ripetono che l'incantesimo più grande è l'amore, chissà cosa mi ricorda. E che l'incantesimo più grande è il sacrificio salva tutti. La madre di Harry sacrificandosi ha salvato il figlio sacrificandosi salva tutti. Harry muore per poter risuscitare, chissà di cosa stavano parlando. Nella grande letteratura fantasy noi abbiamo messo la fede nella vita. E noi abbiamo messo anche la magia dell'uomo. In Harry Potter le parole diventano cose, giusto, il senso dell'incantesimo. Ma anche per noi esseri umani le parole diventano cose. Il pensiero diventa cose. Qualcuno ha pensato alla lampadina e è diventata una cosa. Beh, non subito, non è stato automatico. Stamattina ci siamo lavati tutti i denti, giusto? Per quanti anni, per quanti secoli qualcuno ha sognato che in tutte le case si potendo girare una rondellina sarebbe arrivata acqua pulita e anche potabile? Vi rendete conto del miracolo incredibile del fatto che stamattina ci siamo lavati i denti? Perché amiamo così tanto il fantasy? Perché ci parla della vera magia dell'uomo. Noi siamo invincibili, noi siamo resilienti, noi siamo capaci di tutto quello che vogliamo. Noi apparteniamo all'epoca più straordinaria che sia mai esistita dall'inizio del mondo. Non avevi detto che l'epoca del genocidio? Sì, è vero anche questo. Ma è anche l'epoca più straordinaria che sia mai esistita dall'inizio del mondo. Noi ci siamo tassati per mandare dei soldi a dei tizi che non avevamo mai visto in vita nostra, che avevano avuto lo tsunami o il terremoto dall'altra parte della terra. Non è mai successo prima. Noi siamo 7 miliardi di creature umane perché la mortalità infantile è stata abbattuta. E una persona anziana può anche morire con dolcezza, i suoi sistemi si stanno spegnendo uno dopo l'altro, ma un bambino, tutti i sistemi sono in espansione. Un bambino muore attraverso un dolore inenarrabile. La morte di un bambino per qualsiasi malattia è sempre infinitamente più dolorosa di quella di un adulto, soprattutto anziano, perché prima che il cuore molli, prima che i polmoni mollino, prima che i reni mollino, ci va un dolore infinito. Non abbiamo più il vaiolo, molti bambini non sanno neanche cosa vuol dire questa parola. Non abbiamo più la peste. In questo straordinario libro che i Promessi Sposi e Alessandro Manzoni si mangia vivi, questi grandissimi tromboni di Crucchi e di Russi, in questa straordinaria scena in cui c'è la mamma di Cecilia che mette la sua bambina vestita di bianco e le aggiusta il vestitino sul carro dei monatti su cui ci sono i cadaveri scomposti, osceni, come sempre sono i cadaveri, e dice agli uomini: tornate prima di questa sera a prendere me l'altra bambina. E noi capiamo dalle sue parole: lei ha paura di morire per prima, che la bimba resti a morire da sola, spera con tutto il cuore che la bimba muoia prima di lei, almeno potrà tenerla tra le braccia. Immaginiamo di avere questa, di poter andare noi da questa donna attraversando il tempo, lei lì con la sua bimba, e dirle: signora, la peste non esisterà più. E lei ci dirà: porca miseria, ma saranno contenti, non sempre incazzati per lo spread. Allora, non esiste più la peste. Siamo 7 miliardi, e di questi 7 miliardi ci dicono che 1 miliardo soffre la fame, sarà senz'altro vero, il che vuol dire che 6 non la soffrono, giusto? Questi numeri non sono straordinari. Io sono stata in Africa e c'era una dittatura che ha causato una carestia, l'hanno fatto apposta. E vi posso assicurare che ovunque ci sia la fame è perché c'è un dittatore che la sta blindando, perché altrimenti l'avremmo già risolta. Di 6 miliardi di creature umane, 5 sanno leggere e scrivere, va bene, non leggeranno tutti un libro l'anno, ma sanno leggere e scrivere. Questi dati sono miracoli. Gli avessero detto all'inizio dell'Ottocento, dice: ma dai, figurati, per favore. Invece sì. Allora noi, proprio noi, dobbiamo fare l'ultimo grandioso miracolo. Dopo aver fronteggiato le due dittature atee, adesso dobbiamo fronteggiare le teocrazie. Perché nessuna religione di pace, nessun mondo di pace, nessuno se lo sogni nemmeno lontanamente, potrà nascere su un pianeta dove gli uomini non sono liberi. E gli uomini non potranno mai essere liberi, fino a quando le donne sono schiave. Perché gli uomini, anche i maschi, nascono figli di una donna. E se una donna non ha il senso della sua identità e della sua dignità, non può averla nemmeno il figlio maschio. Gli uomini liberi non possono nascere figli di donne schiave. Nessun mondo di pace nascerà mai su un pianeta dove una bambina di 5 anni può essere infibulata, una di 8 può essere sposata e una di 12 può essere lapidata. Quindi la libertà o tutti o nessuno, per cui la libertà tutti. Questa è la grande sfida della nostra epoca. E noi ci riusciremo. E qualcuno di noi può darsi che sarà ucciso. Capita di essere ammazzati. È capitato a Gandhi, è capitato a Martin Luther King, è capitato a Theo Van Gogh. Ma come il cacciatore di Biancaneve, è molto più divertente morire per qualche cosa che vivere per nulla. E allora noi abbiamo bisogno di coraggio. Ricordiamo al fantasy che il nostro poema epico serve per coraggio. Qual è il messaggio finale del fantasy? Qual è il messaggio finale del Signore degli Anelli, di Sir Aragorn, ma soprattutto dei due piccoletti, Sam e Frodo, che non mollano mai? Qual è il messaggio di Harry Potter, che se la cava veramente alla grande anche lui? Qual è il messaggio di Yosh, Ranska, i protagonisti della mia saga? Il messaggio è: non abbiate paura. Grazie per avermi ascoltato. Grazie, grazie davvero, è stato proprio... Se vuoi bene qualcosa, magari se qualcuno di voi vuole fare qualche domanda a Silvana, abbiamo l'opportunità di tenerla qui ancora qualche minuto, ecco. Volevo chiedere una cosa, intanto grazie, sono rimasta rapita, ho un sacco di cose che frullano dentro e ho bisogno di un po' di tempo per sedimentarle tutte. Ma mi viene questa domanda: hai scelto il fantasy o il fantasy ha scelto te? ho scelto il fantasy. Io ho sempre avuto l'ossessione dello sterminio degli ebrei, da quando abitavo a Trieste. Io camminavo molto vicino a mio padre. Mio padre era un camminatore e io ho preso l'abitudine di camminare con lui. All'inizio lui mi raccontava delle fiabe, quando sono diventata più grande mi ha raccontato la storia, anche delle fiabe, non solo quella. Nel posto dove il nostro cane correva felice c'erano state le trincee della Prima Guerra Mondiale. A Trieste c'era anche la risiera di San Saba, un campo di concentramento. E lui mi ha raccontato anche quella storia, che non era comprensibile. I bambini hanno menti fantastiche, credono a Babbo Natale, ma hanno menti logiche. Che si uccidano, che è una fatica, persone che non hanno fatto nulla di male, non è comprensibile. Da allora quell'evento mi ossessiona. Non è mai passato un solo giorno in cui non abbia portato fuori il mio cane d'inverno, con gli stivali pesanti e il giaccone, in cui non abbia pensato a dei corpi scheletrici coperti di stracci di cotone a meno 30 sotto zero. E non c'è stata una sola volta in cui non abbia versato acqua pulita nella ciotola del mio cane, in cui non abbia ricordato che sui treni i bambini morivano di sete disidratati senza acqua. Quella storia mi ossessiona. Il secondo punto, scelto il fantasy, è stato Il Signore degli Anelli. Ho scoperto questo libro perché ero già medico, avevo contratto la varicella e quindi dovevo stare parecchi giorni a casa, non potevo tornare in ospedale, ormai stavo già benino perché altrimenti avrei contagiato i malati. E ho chiesto ai familiari se qualcuno aveva qualcosa di buono da leggere. E mia sorella mi ha portato Il Signore degli Anelli, dice l'ho preso dalla biblioteca della scuola e appena uscito dicono che è carino. Dicono, Luisa, ma che sei scema? Ma ti pare che mi metto a leggere una mappazza di 1000 pagine che parla di elfi e gnomi? Dice, senti, ha detto che beh, di questo è. Non avendo nient'altro da fare, saltando il prologo, che è una mappazza indecente, ho letto Il Signore degli Anelli e mi è piaciuto molto. Io mi sono laureata in medicina negli anni 70 e ho fatto il chirurgo. Negli anni 70 le bambine non le volevano in sala operatoria, comunque lasciamo perdere. Il mio primo lavoro è stato trovare lavoro in chirurgia toracica. L'ospedale San Luigi Gonzaga, 800 pazienti, ero l'unico chirurgo di guardia di notte. Io ero terrorizzata. E mi portavo dietro i libri di chirurgia, anche per dargli un'occhiata, e Il Signore degli Anelli, perché leggerlo e rileggerlo in qualche maniera, quando ero spaventata, mi dava coraggio. Mi sono resa conto che il linguaggio metaforico ci permette una leggerezza incredibile. Noi possiamo parlare dei temi più atroci, Hansel e Gretel, restando su un piano di leggerezza. Non solo, ma è anche un linguaggio universale. Se avessi parlato degli ebrei non avrei parlato di tutti, se avessi parlato di tutti non avrei parlato degli armeni, parlando di elfi ho parlato di tutti. E quindi mi sono resa conto che la letteratura fantastica in realtà ha una volenza straordinaria. Sono estremamente fiera di essere uno scrittore fantasy, come sono estremamente fiera di essere uno scrittore non per ragazzi, anche per ragazzi. Nel senso che quello che è buono, il libro che è buono per un dodicenne è buono anche per un sessantenne. Quindi i cosiddetti libri per ragazzi sono in effetti, come diceva Tolkien, anche per ragazzi. Usiamo il microfono così resta registrato. Allora, io fermo restando che concordo assolutamente con, per esempio, l'esempio di Tolkien. Solo mi chiedevo una cosa. Allora, parto dal punto che mi dicono che Tolkien ha sempre negato di aver scritto una metafora, anzi... No, il fatto è questo. Ci sono due cose che mi fanno pensare. La prima è che comunque quell'analisi che fa lei su Tolkien, che ripeto, io condivido, anche perché Tolkien era assolutamente cristiano, e l'ha sempre ammesso, anche se però lui non è nato come scrittore fantasy, lui è nato come linguista che voleva dare un mondo ai suoi linguaggi, neanche ai suoi personaggi. Primo, per anni di Tolkien è stata data una lettura completamente diversa, ne è stata data una lettura socialmente, politicamente completamente diversa rispetto a qui. Quindi va bene dare adesso questa lettura, però effettivamente è un'idea che ci stiamo facendo noi. Seconda osservazione, parallelamente, anzi antecedentemente a Tolkien, io penso a Robert Howard, è nata una letteratura fantasy completamente diversa, molto più violenta, molto più sanguigna. Robert Howard è quello di Conan, Conan il Barbaro, per chi non lo conosce. E quindi, cioè, queste non sono interpretazioni, questa è la domanda. Tolkien sicuramente non sapeva di aver usato delle metafore, come non lo sapeva nemmeno Kafka. Kafka non ha capito di cosa è stata una metafora, ma il linguaggio metaforico è un calderone infinito. Ognuno ci trova quello che ci sta cercando, e il solo fatto che ce l'hai trovato vuol dire che c'era. Per quanto riguarda anche il fantasy più violento, per esempio Conan, stiamo comunque ristabilendo la lealtà, il coraggio e la cavalleria. L'esempio più divertente noi ce l'abbiamo con un fantasy che non è un eroe che fantasy, che è Pullman. Pullman, Le queste oscure materie, libro, per carità, lasciamo perdere il film. Pullman è stato molto carino. Hanno detto, il film non c'entra un accidente con quello che ho scritto io, però il film divertente è andato a vedere, tra l'altro mi è dato un pozzo di quattrini, per carità. Ok. Pullman è l'anticristiano. È l'anticristiano per eccellenza, il quale non si rende conto che ha scritto un libro cristiano basato sul sacrificio. Il mondo rischia di essere perduto e i due ragazzi lo salvano rinunciando all'amore infinito che hanno l'uno per l'altro. Sono due ragazzi di due universi diversi che il loro, per contattarsi dovrebbero tenere aperto un contatto che rischia di perdere tutto. Alla fine, comunque, il solo fatto che ci siano lealtà, coraggio e cavalleria, i valori cristiani sono quelli. Poi possiamo girarli come volete. Poi non è che quello che ha scritto Biancaneve ha detto adesso gli spiego il genocidio così quando tra cinque secoli ce l'hanno lo capiscono. Non lo sapevano neanche loro, ma sono intuizioni che finiscono. Peraltro, se uno scrittore che mi scrive nero su bianco di essere cattolico, tra l'altro sia Tolkien che lui, saranno cattolici di frontiera, Perché la famiglia di Tolkien era protestante. Sua madre si converte al cattolicesimo e viene talmente rinnegata dalla famiglia che poi morirà di diabete da sola di miseria. Lewis, anche lui perde sua madre, è irlandese, dice ma no, irlandese era cattolico, no, lui era orangista, cioè erangista protestanti, gli iperprotestanti, che è un libero pensatore, che più libero pensatore non si può, e che poi diventa cattolico. Allora, se uno che si dichiara cristiano mi scrive una storia che è basata sul sacrificio, che è basata sull'amore, vabbè ragazzi, non è che noi ci mettiamo lì. Io sono una dei pochi che dice questo vuol dire questo, questo vuol dire quell'altro. La stragrande maggioranza scrive perché gli viene in mente, e gli è venuta in mente quella storia lì perché l'aveva dentro. Allora, volevo dirvi due cose. In fondo ci sono alcuni dei miei libri, e se qualcuno vuole che glielo firmi non ci rinuncerei per niente al mondo. Poi c'è anche una piccola dispensa sull'ottimismo, istruzioni per rendersi felici. Io sono anche di neuroscienze e il cognitivismo e le neuroscienze hanno scoperto l'ottimismo. L'ottimismo non ha nulla a che vedere né col carattere né con l'educazione. È un'autodisciplina, è un'assunzione di responsabilità totale. Mi assumo la responsabilità non solo delle mie azioni, ma addirittura delle emozioni, per quanto infinita sia la notte che mi circonda da tutti i lati, sono adesso l'unico capitano della mia anima. Si vende un prezzo folle qua, sì, lo so, d'accordo, è carissimo, ma devo raccogliere fondi perché sono una delle poche persone le poche organizzazioni che stanno soccorrendo i profughi cristiani della Siria. Questa, la Siria è la seconda culla della cristianità. Le 300 chiese più antiche sono in Siria. In questo momento ci sono profughi della Siria, moltissimi sono islamici, ma dato che la maggioranza degli aiuti sono amministrati da associazioni turche islamiche, gli islamici riescono a averne molto di più. In più la cristianità è fisicamente sotto attacco, nel senso che la Siria, come il Nord Africa, sono nazioni che avevano una grandissima presenza ebraica che era lì da 2000 anni e questa presenza ebraica è stata completamente sradicata, sono tutte Judenreich, non ci sono più ebrei e adesso si sta cercando di sradicare anche il cristianesimo. Alcuni dei ribelli siriani hanno dichiarato che vogliono purificare la Siria e molti sono scappati in Libano, quindi ci sono rifugiati che sono accolti nel vescovado ormai da 8 mesi, da 10 mesi nelle scuole, hanno bisogno di aiuti continui e cerchiamo di raccogliere fondi per loro. Quindi questo denaro serve per queste persone. Grazie, grazie di tutto. Niente, allora vi salutiamo e ringraziamo. Ora davvero Silvana De Mari, l'aspettiamo magari un'altra volta di nuovo a Mondovì. Buonanotte.